Allora diamo inizio in questa disgraziatissima ora, tuttavia noi siamo succubi degli organizzatori e la nostra libertà finisce dove comincia la loro, esattamente, e do la parola al dottor Capraro perché deve leggere due o tre paginette, non di più, del testo di quello che avrebbe dovuto essere l'intervento di Severino Dianic. Severino Dianic non è presente in mezzo a noi fisicamente, come sempre diciamo, lo è però spiritualmente, ce la vogliamo, che non ci abbia abbandonato del tutto, comunque farà la sua relazione al convegno di maggio. Allora la parola al dottor Capraro. Sì, io leggo brevemente quello che ha scritto e desidero anche collegarmi con l'ultimo intervento della mattinata del professor Garelli, il quale ha sottolineato quanto i teologi possono in realtà ricevere in questo scambio reciproco dai sociologi. Mi permetto anche di richiamare quanto il professor Toscano dell'Università di Pisa, presidente dell'Associazione Italiana di Sociologia, ha detto qui alla Facoltà di Sociologia di Trento in un convegno nel mese di ottobre, ne parlerò anche in sede di presentazione del volume. E concludendo il convegno, il professor Toscano ha detto ai sociologi: dovete intavolare confronti con tutte le discipline, in particolare con la teologia, e ha sottolineato proprio la necessità di aprire un confronto con la teologia. Dopo questo, questa riflessione ero presente, sono sceso, diciamo, a sottolineare, sì, ho fatto capire al professore che all'interno dell'Istituto Trentino di Cultura era in atto la preparazione del convegno e quindi anche la previsione di questo workshop e quindi l'incontro tra sociologi e teologi. Come dire che anche i sociologi hanno qualcosa da imparare dai teologi, ecco. In ogni caso, ecco perché, nuove prospettive dell'ecclesiologia di fronte alle sfide del futuro. La previsione e la progettazione del futuro, propria delle scienze umane, procede su di una scala diversa da quella della fede. La prima, infatti, proietta sul futuro, per poterlo calcolare, le misure del passato e del presente. La seconda, invece, conta sulla irruzione nella storia di una grandezza cosmogenea, quella del Regno di Dio. Continua il teologo Dianic: per questo motivo la fede è più sicura e allo stesso tempo più reticente rispetto al futuro. Ciò non toglie che la Chiesa possa e debba prepararsi al suo futuro storico con l'ausilio delle scienze umane e fare progetti per la sua missione in un mondo che risultino il più possibile congrui rispetto alle linee di sviluppo che le scienze delle dinamiche sociali individuano nella situazione presente. Il problema metodologico più delicato, però, sembra essere quello del ruolo della teologia. Non credo che di per sé sia la teologia lo strumento principale della progettazione pastorale della Chiesa. Previsioni e progettazioni sono possibili piuttosto sul piano delle scienze umane. Sembrerebbe proprio della teologia, invece, la funzione critica consistente nel far funzionare la riserva escatologica, a cui accennava anche Renner stamattina, citando il Metz, a proposito di previsioni e progetti. Si potrebbe allora prendere in considerazione l'opportunità di esaminare alcune linee di tendenza che sembra di poter rilevare nello sviluppo odierno della collocazione della Chiesa nella società e cercare di cogliere i valori che sono in gioco nella mutazione in corso. A modo di esempio, la stessa questione del futuro non dovrebbe poter essere posta nella riflessione teologica come se si fosse sicuri che ci sarà un terzo millennio. Del terzo millennio non si può parlare come si parla del secondo e del primo che ci sono già stati. Quale discorso ci è permesso e quale linguaggio possiamo utilizzare? Se il futuro della religione sembra delinearsi come religione di carismatici, il problema principale della Chiesa dovrebbe essere quello della custodia della memoria Christi, che costituisce la ragione di fondo della stessa esistenza di un'istituzione ecclesiastica. D'altra parte, il cristianesimo non ha alcun futuro se non sia quello della pienezza del tempo già realizzatasi nella risurrezione di Gesù. Continua Dlamic, l'uscita dal cristianesimo di massa e la tendenza ad abbandonare la chiesa di popolo per una chiesa comunità porta con sé il problema dell'appartenenza dei soggetti più o meno incapaci di una scelta personalmente ben definita, mentre il Vangelo è proprio la buona notizia per i poveri. Se la Chiesa, invece che comunità di popolo, dovesse diventare una specie di anfizionia di varie comunità, l'appartenenza risulterebbe sempre indiretta, in quanto solo appartenendo a questa o a quella comunità particolarmente determinata si sarebbe appartenenti alla Chiesa. Come si salverebbe la libertà del cristiano e il suo diritto di appartenere alla Chiesa solo in forza della fede? L'affidamento, poi, altra riflessione di Dlamic, del ministero pastorale ai laici come rimedio alla mancanza di pastori ordinati non può sfuggire alla previa analisi del fenomeno della mancanza di pastori. Questo sembra essere un fenomeno non naturale, tanto vero che fino al Concilio di Trento pare che il problema non esista, ma è indotto, fenomeno indotto dalle regole canoniche che pongono rigide condizioni per poter essere ordinati. Sarebbe poi necessario prevedere le conseguenze nell'equilibrio dell'esistenza ecclesiale che deriverebbero da un affidamento della cura pastorale ad un laico e della celebrazione eucaristica ad un ministro ordinato. Un tale processo evolutivo potrebbe indurre, invece, che uno sviluppo del valore della laicità, una nuova accentuazione della separatezza fra sacro e profano e una forte reminiscenza della dicotomia ordine-giurisdizione. E qui si rifà in modo particolare a quanto Sloemer, il teologo pastoralista di Vienna, che sarà presente al nostro convegno di maggio e che ha in pratica suscitato l'oggetto della nostra riflessione con il suo volume, il quarto della serie di teologia pastorale, intitolato appunto Futurologia Pastorale, chiama come lo scisma pastorale fondamentale tra ordine e giurisdizione, tra clero e laicato. Infine, conclude Dlamic, anche la questione della salvaguardia da parte della Chiesa della propria identità e del rischio conseguente di una presenza imperialistica ed intollerante nella società dovrebbe essere affrontata con un serio approfondimento del senso e delle condizioni dell'appartenenza alla Chiesa, della possibilità o impossibilità di disegnare il profilo dei suoi confini. Scritto a Firenze il 15 febbraio 1994. Ecco. Dopo questa lettura io approfitto per sottolineare che i relatori presenti sono invitati a definire il tema delle loro relazioni e a riconsegnare quanto hanno trovato in cartella in relazione appunto alla partecipazione al convegno di maggio. Ma tutti gli invitati al workshop sono anche invitati al convegno di maggio, per cui se vogliono dare la loro adesione alla segreteria lo possono fare approfittando della loro presenza qui. Ecco, grazie.